Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Siete qui a Mebius, ciao Chiara. Evviva, ciao Federico, buonasera a tutti, benvenuti. Da che cose incominciamo? Partiamo parlando di ossa bioniche. È stato brevettato un super materiale di cui sentiremo parlare. Veramente spettacolare. Sì. E poi c'è una super domandona di ascoltatore, è tutta sulla gravità, gravitazione, onde gravitazionali, insomma un fatto veramente grave. E poi chiudiamo con delle pillole di robotica. Sì, una robotica molle, soft e la robotica più tradizionale. Via. Ma adesso lo spieghiamo, però è veramente strano come si riescano a mettere insieme parti organiche e parti fasulle. Inorganiche. E poi c'è un trucco evidentemente che riesce a far sì che l'organico insieme non si accorge dell'artificiale. Di questo parliamo. Stiamo per parlare di ossa bioniche, che questo aggettivo insomma è sempre bellissimo. Molto suscita molto suggestione, però va anche spiegato. E inquadrato. Qui con noi stasera, ne approfittiamo subito per salutarla, c'è Laura Cipolla, buonasera. Buonasera. Lei è docente di chimica organica all'Università di Milano Bicocca e ha partecipato insieme ad un ampio gruppo di ricerca a appunto la brevettazione di questo osso bionico. Ha lavorato ovviamente con il suo gruppo di ricerca della Bicocca insieme all'Imperial College di Londra e avete tirato fuori quello che è un osso, quindi un tessuto osseo e cartilagineo che è in grado di rigenerarsi. Lasciamo a lei raccontare questo brevetto. Sì, propriamente quello che abbiamo ottenuto è un materiale in grado di sostenere la rigenerazione del tessuto osseo e cartilagineo, che ha delle proprietà particolari perché la formulazione che abbiamo pensato consente di limare le proprietà meccaniche dell'osso e al contempo l'elasticità della cartilagine. Questa è la grande innovazione. È la novità. Ma senta, cioè, pensiamo a un osso rotto. Voi cosa si fa? Gli si spalma su questa miracolosa vernicetta? Cos'è che fate? Com'è che avviene l'aggiustamento? No, in realtà per l'osso rotto credo che il sistema più economico, più semplice sia ancora l'uso del gesso. Questo materiale può servire nel caso di rigenerazione di un tessuto osseo o cartilagineo danneggiato pesantemente e con non tanto da fratture ma patologie o osteoporosi per ad esempio. Okay. Per cui manca proprio una parte, questo andrebbe impiantato. Va bene, possiamo immaginare magari dei buchini nell'osso, ecco, in quel caso cosa fate? Com'è che si fa? Di fatto il materiale che è stampabile in 3D può prendere la forma del danno del tessuto e quindi inserito ad hoc nel sito lesionato, quindi è necessaria un'operazione chirurgica che poi varierà di entità a seconda del danno da rigenerare. È stato brevettato perché è un materiale ovviamente innovativo, non c'era prima, ha una componente, come diceva Federico, inorganica e una componente organica. In questo modo si sposa, diciamo, bene con tutto il resto dell'ambiente intorno, cioè le nostre ossa? Sì. Erano già nati da tempo materiali di questo tipo che vengono chiamati materiali ibridi. L'innovazione sta proprio nella composizione e nella formulazione che abbiamo utilizzato e per questo motivo abbiamo pensato di brevettare il materiale. La componente inorganica e la componente organica che abbiamo utilizzato dagli studi che sono già stati fatti in precedenza sono assolutamente biocompatibili, sì, e quindi di fatto adattabili all'impianto del nostro organismo. E possiamo sapere che materiali sono? Gli avete dato un nome? No. Una componente è vetrosa, perché si parla di silicio, l'altra componente è polimerica, quindi è analoga alle plastiche che possiamo usare quotidianamente, anche se con qualche piccola differenza, perché deve essere biocompatibile ed è biocompatibile, ma non vi posso dare chiaramente i nomi. La ricetta. Va bene. Però esatto. Ci dica se sbagliamo, ne abbiamo già parlato un'altra volta qua a Mebius, l'alchimia difficile, quindi la ricerca difficile in questi casi, è riuscire a creare dei materiali che chiaramente hanno una provenienza artificiale e che, per dirle in breve, riescano a ingannare invece i materiali nostri veri e quindi essere perfettamente accettati. Sì, diciamo di sì, nel senso che i materiali che abbiamo scelto per la nostra formulazione sono stati tali da essere già notoriamente biocompatibili e quindi possiamo, diciamo così, considerarli adeguati all'utilizzo nel nostro organismo senza fare in modo che questo risponda in maniera negativa al nuovo materiale inserito. Senta, e poco fa lei ci ha detto che questo materiale viene stampato in 3D. Beh, questo ce la deve spiegare. Che cosa significa? Significa che la formulazione del materiale è adeguata per l'estrusione con una stampante che consente, dietro disegno fatto al computer, la preparazione di materiali con qualsiasi tipo di forma e quindi con una forma che può essere adeguata al danno del paziente, quindi se vogliamo con una forma personalizzata. Cioè voi avete un certo danno, una certa zona su cui intervenire, viene costruito qualcosa che si adatta a quella forma lì, una specie interviene. Di toppa, non so, ecco, esatto, come sì, si faceva esatto. Una volta con le biciclette, sì, sì, sì. È una roba così, sì, cioè... si adatta al danno del tessuto, dimensioni e forma. Proprio per la duttilità e anche le caratteristiche di questo materiale avete pensato anche a degli usi industriali, quindi spostandoci un po' l'applicazione potrebbe essere invece molto diversa. Sì, perché tra le proprietà che ha questo materiale, oltre che essere contemporaneamente resistente ed elastico, può anche autoripararsi, cosa che in realtà non ci aspettavamo ma che abbiamo ottenuto con sorpresa. La capacità di autoripararsi può consentire l'utilizzo in altri ambiti. Dobbiamo andare ancora a fondo dello studio del meccanismo che rigenera, che consente la riparazione del materiale. Una volta compreso questo, la tecnologia può essere applicata a materiali per varie applicazioni industriali che non siano solo la medicina. Quali ad esempio? Beh, possiamo immaginare tutto ciò che normalmente ci si rompe, come può essere uno schermo di un computer piuttosto che lo schermo del telefonino, per esempio. Lo schermo del telefonino, ad esempio. Certo è che bisogna sviluppare ad hoc il materiale, conoscendo la tecnologia, per quel tipo di applicazione. Autoripararsi cosa vuol dire? Che lei mette lì, insomma, prepara la cosa, poi va al cinema e quando torna è autoriparato. Cioè c'è un'evoluzione nel tempo, è una cosa di questo genere? Sì, esatto. Quello che abbiamo fatto nel laboratorio, con dei prototipi di materiali che abbiamo preparato, abbiamo effettuato un taglio netto con un taglierino, riavvicinando le estremità tagliate, il materiale nel giro di qualche decina di secondi si ripara. Quindi pochissimo. La riparazione sulla composizione che abbiamo provato si è veramente molto molto rapido. A questo proposito, insomma, il gruppo di ricerca e la dottoressa ci ha inviato anche dei video che fanno ben vedere, insomma, come avviene la rigenerazione. Tra l'altro questo materiale è possibile renderlo anche trasparente, quindi ecco perché le applicazioni di cui ci ha raccontato. Quindi chiunque fosse curioso, sul nostro blog, come sempre, www.radio24.it, trova i video e i materiali che ci hanno mandato i ricercatori. Va bene, abbiamo detto tutto? Sì. Vorrei precisare solo una cosa. Prego. Che chiaramente noi abbiamo ipotizzato, perché questo è stato il nostro punto di partenza, un'applicazione nell'ambito della medicina rigenerativa, ma per poter arrivare in clinica ci vorranno alcuni anni di studio, quindi parliamo di un'applicazione che, se tutto va bene, sarà efficace tra una decina d'anni. Fa bene a dirlo, perché poi dopo a noi arrivano mail di gente: mi sono rotto un'unghia, dove devo andare? E invece bisogna far capire che, anche se sappiamo che la ricerca ha un cammino piuttosto lungo. Va bene, grazie dottoressa, buon lavoro davvero. Prego. Ecco qua, siamo arrivati al traffico. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La grande domandona gravitazionale di Antonio. Ci è arrivata questa volta da Antonio direttamente in MP3 mentre guidava, sentirete. Sentiamo Antonio. Gentile redazione, volevo porre due domande sulla gravità. Alla luce della nuova scoperta delle onde gravitazionali, volevo sapere se domani sarebbe possibile piegarle al nostro piacimento e sfruttarle e finalmente vincere la gravità con dei mezzi scientifici. E altresì volevo sapere, per ipotesi, scavando e andando al centro perfetto della Terra, come si comporta la gravità in quel punto preciso? Si annulla? O entrano in ballo altre forze diverse? Grazie da Antonio da Cardito. eccolo qua Antonio, che è una forza della natura, vuole imbrigliare le onde gravitazionali e fare un buco al centro della Terra. Un programmino non male. Allora diamo il benvenuto qui con noi Riccardo Govoni, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Benvenuto. Lei è socio onorario dell'Associazione per l'insegnamento della fisica e anche divulgatore scientifico, quindi ci dia una mano a rispondere al nostro Antonio. Sì, ci provo. Allora, la prima domanda, innanzitutto è quella che è stata trovata, è stata una conferma, perché in realtà di onde gravitazionali si parlava da un po'. No, però trovarle, questo è stato di fatto la novità. Sì. Il fatto di imbrigliarle la vedo molto difficile, le energie in gioco sono elevatissime, pensate solo a che accidenti di cataclisma cosmico deve essere successo per poterle osservare, quindi solo l'osservazione ha messo in gioco delle energie davvero fuori dalla attuale portata. Dopodiché è chiaro che quando uno fa queste affermazioni nel giro magari di, che so, 20 o 30 anni può essere anche fortunatamente smentito, ma questo è il mettersi in gioco con la fisica. Non c'entra molto, ma vi ricordo che ancora da studente si diceva belli i laser, chissà se avranno un futuro. E invece adesso ce l'abbiamo in tasca. Ma poi Govoni, cosa vorrebbe dire imbrigliare in realtà? Ecco. Sì, appunto, cosa vorrebbe dire imbrigliare è tutta da scoprire. In ogni caso, se sono onde, uno potrebbe pensare che vabbè, da qualche altra parte ne faccio un'altra, stessa frequenza, potrei pensare con una sorta di parallelismo molto azzardato a onde di altro genere, tipo meccanico, e possa arrivare delle interferenze, però ripeto, non si capisce bene. È solo fantascienza. È il sogno di poter volare. È solo fantascienza. No, fermo restando che noi riuscissimo a rilevarle nuovamente, che riuscissimo a imbrigliarle e tutto quanto, comunque influenzerebbero la forza di gravità terrestre? No, perché direi di no, cioè nel senso che sono perturbazioni dello spazio-tempo, tutto sommato, influire sì, forse in un certo senso sì, ma non nel senso sicuramente che diceva l'ascoltatore. Tra l'altro ho notato molto bella la frase, ha detto con metodi scientifici, perché certo. Evidentemente certo. La gravità con altri metodi già concesso, ecco, tutto sommato. Vabbè, ma questo noi non entriamo nel merito. Poi la seconda invece domanda è: facciamo un buco, una trivella al centro della Terra e vediamo lì la gravità com'è, si azzera? Qui la domanda è molto più semplice, nel senso che è una domanda classica, si trova una risposta un po' dappertutto, sì, si azzera, se pensiamo che è dovuta alla massa, ma se io sono esattamente al centro della Terra, proprio in quel punto lì, come dice sempre lo ascoltatore, beh, la massa è esterna, non è interna al punto, quindi posso pensare che lì la gravità sia zero. Insomma. Cioè quindi, c'è da tutte le parti e quindi si annulla. E quindi si annulla lì, si potrebbe parlare di sfericità, poi dovrebbe essere omogenea, ma insomma senza andare a tirare fuori dei dettagli di questo genere, andando per grandi approssimazioni, sì. Si azzera. Ci sarà una gran corrente d'aria. Se ci cade una monetina, insomma, rimane... lì la cosa è un pochino più interessante, cioè l'altro problema, ma non essendo stato sollevato, magari ve lo lascio anche come curiosità ad altri ascoltatori, perché la risposta si trova, se il foro fosse passante. Sì. Ah, certo. Arriva dall'altra parte, allora lascio cadere qualcosa, cosa succede? Ma pensate a una molla che oscilla, vabbè, insomma, e va avanti e indietro. Va avanti indietro. Però sono i numeri che diventano interessanti, alle velocità a cui può essere un esercizio non solo di far delle domande, ma andarsi anche a trovare delle risposte. Va bene, grazie intanto Govoni, lei ha scoperchiato un vaso di Pandora, vedrà che ci risentiremo arriveranno presto. Altre domande. Grazie a voi. Grazie. Arrivederla. Abbiamo partecipato a due eventi di robotica molto diversi fra loro. Comincio io? Vai, raccontaci. Grande sfida a Livorno fra robot soffici, robot soft, così vengono definiti. E adesso con Cecilia Laschi, che coordina l'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, entriamo dentro questa realtà. spiegando anche che cosa vuol dire questo software. Sono effettivamente molto diversi dagli altri che conosciamo da anni ormai, quelli che per esempio lavorano nelle aziende. Sfida nel senso che c'erano due percorsi in cui bisognava superare diverse prove e vinceva il RoboSoft, che riusciva a fare in tempi più rapidi questo tipo di percorso. In questo caso però è chiara, la radio si deve sposare completamente con internet. Ah, certo. Perché vi diciamo da subito, sentite questa intervista, ma di andare al nostro blog, perché abbiamo tutto un piccolo documentario sulle vicende di questi robot. Vedrete che sono stranissimi, hanno le forme più diverse, poi abbiamo delle interviste. Insomma, hai seguito anche tutta la challenge. Ho seguito tutta la challenge con tanto di vincitori, quindi andate certamente al nostro blog. Ho iniziato l'intervista con Cecilia Laschi chiedendole: ma questa definizione soft, sì è vero, c'hanno delle parti molli, ma dovrebbe essere un po' più estesa, perché soft in inglese non vuol dire solo molle come il cuscino, vuol dire duttile, vuol dire uno che si sa adattare alle cose, insomma. Abbiamo cominciato da qui. Sì, io a volte dico che i nostri robot soft sono sì morbidi nel corpo, questa è la cosa più evidente, ma anche nel comportamento. Cioè, questo significa che si adattano meglio all'ambiente, si adattano all'interazione con l'ambiente, anzi la usano, la utilizzano, la sfruttano per avere un comportamento migliore, più semplice, più efficiente, più facile da controllare. I lavori del tuo gruppo, dopo un po' di anni, vediamo che stanno avendo un risalto notevole. Avete avuto una presentazione di questa challenge su Nature, mi sembra due pagine, una cosa. È la prima challenge che si tiene? Sì, sì, è la prima tra robot soft, o perlomeno sì. Ci aspettiamo, insomma, che i partecipanti ci aspettavano fossero soft. E in realtà le challenge in robotica sono ultimamente molto popolari, perché è un modo un po' più chiaro, evidente, di misurare qual è il livello della tecnologia. La robotica ha sempre avuto questo problema, perché a differenza di altre tecnologie è difficile dire se un robot è migliore di un altro, perché hanno tante funzioni, sono fatti in maniera molto diversa, per cui è difficile trovare proprio una metrica per misurarle. Le challenge lo sono, e quindi ultimamente stanno diventando sempre più popolari, perché poi sono anche un modo per direzionare la ricerca. Io faccio sempre l'esempio della DARPA Challenge, che è la più importante. La primissima DARPA Challenge riguardava le auto autonome e oggi sono una realtà, quindi secondo me la DARPA Challenge in questo senso ha servito molto allo scopo di direzionare la ricerca e portare la tecnologia a un livello più alto di maturità. Senti, dove andiamo con questa soft robotica? Cioè, in alcuni casi è del tutto evidente che applicazioni può avere, come per esempio queste delle situazioni di emergenza. Sotto una casa crollata un robottino serpente può andare a trovare un sacco di persone che magari hanno poche ore per giocarsi la vita. Però al di là di questo, anche in altri ambiti, in imprese, non so, cos'è che ci puoi dire? Beh, devo dire che per me le applicazioni che poi sono arrivate dopo il primissimo progetto, che non pensava a nessuna applicazione, era proprio una sfida tecnologica di capire se si potevano utilizzare i materiali morbidi, e le applicazioni che sono arrivate dopo per me sono state tutte inaspettate. Devo dire, non sono cose che potevamo immaginarci noi che eravamo i ricercatori che avevamo fatto i robot soft, invece se le sono immaginate bene gli utilizzatori di queste tecnologie. Quindi per esempio i medici hanno sempre un sacco di idee su come si possono utilizzare i robot morbidi, sia in chirurgia. Poi abbiamo fatto un progetto, abbiamo costruito un endoscopio a rigidezza variabile, stiamo costruendo un braccio per assistere gli anziani, per aiutarli a lavarsi. E in medicina, sì, per esempio citavi la chirurgia, si vedono arrivare delle, quando si deve muovere delle cose in contatto con un corpo, certo. E poi quali altre applicazioni? Anche inaspettato per me è stata la richiesta, sempre da parte dei medici, di costruire dei simulatori di parti del corpo, perché loro immaginano queste parti morbide che in qualche modo si contraggono e si muovono come la tecnologia ideale per realizzare dei simulatori di organi, per esempio, del corpo umano, più realistici rispetto a quelli che usano di solito per il training, per fare pratica. Ma qui c'è una grande presenza in uno spazio buono ma ristretto di gruppi che arrivano da tutto il mondo, perché c'è stata una scuola internazionale che avete messo in piedi, arrivano tutti da lì, ma vedo gente dall'India a Stati Uniti? Sì, vabbè, il mondo della ricerca è sempre internazionale, quindi tutta la settimana la Soft Robotics Week ha compreso una scuola per dottorandi, un evento scientifico tipo workshop, insomma conferenza scientifica con i massimi esperti mondiali di questa disciplina e poi la challenge, quindi sia i team che hanno partecipato e stanno partecipando alla challenge, sia gli studenti che hanno partecipato alla scuola, nonché gli scienziati vengono da tante università del mondo. E poi quello che c'è di bello ormai oggi è che in ogni università si trovano comunque persone che vengono da tanti paesi diversi, quindi alla fine la combinazione metticciata è garantita. Sì. Anche io, Federico, sono andata a seguire un evento, devo dire sempre sulla robotica, perché questa volta è venuto a Milano a trovarci Roberto Cingolani e precisamente a teatro, Studio Melato, qualche giorno fa, si è tenuto lo spettacolo, che era uno spettacolo conferenza, diciamo, Natura Magistra Scienzie, di cui abbiamo la versione integrale, quindi qui, per chi fosse curioso, andate. Sul nostro blog c'è tutto, diciamo, l'oretta in cui Cingolani si è prodigato sul palco, però vorrei farvi sentire l'inizio dello spettacolo e la fine. Cingolani è il direttore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, però qui non parla subito lui. Adesso sentiamo no, vediamo, chi è. Vediamo chi è. Ciao a tutti, stiamo per iniziare. Per favore potete spegnere i telefoni cellulari perché sono molto sensibile al loro suono. Ok, Roberto, puoi entrare e iniziare. Tocca a te. Ciao ICAB, buonasera a tutti. Bella presentazione. Domani alle 9 al lavoro. Ok, va bene. Buonasera. Stasera faremo una chiacchierata un po' fuori dal normale, probabilmente, perché vi parlerò di cose che non sono fatte per un teatro. Ecco, allora gli ascoltatori forse l'avranno riconosciuta, è la voce di iCub, che è il robottino bambino, insomma, che abbiamo visto tantissime volte anche in TV, che si è prestato a dialogare un po' con Roberto Cingolani. Ecco qua. Quindi trovate tutti i materiali degli eventi che abbiamo seguito io e Federico in questa settimana sul blog, quindi www.radio24.it. Sei stato bravissimo, ora sono proprio un figo. E il nostro tempo? È finito, quindi, è finito. Buona settimana a tutti e a tutte, ci sentiamo alla prossima, ciao! Ciao!